24 mattino. Innanzitutto buon anno naturalmente, l'augurio di un 2015 radioso e pieno di sorprese positive, questo da Irene Zerbini dalla redazione di Radio 24. Per questo speciale faremo il giro del mondo per vedere un po' quali saranno i temi di quest'anno che si apre. Molta enfasi hanno avuto in questi giorni le notizie relative ai dati sull'economia americana, cioè il 5% di crescita del PIL è stato scodellato così, diciamo, come regalo di fine anno per il presidente Obama, ma a beneficiare di questa crescita saranno tutti gli americani? Cosa ci aspetta per il 2015 da quella che per ora rimane la nazione più influente del pianeta? E lo chiediamo al corrispondente del Wall Street Journal, Aaron Mains, scrittore, profondo osservatore delle due realtà, quella in cui vive oggi l'Italia e quella di provenienza. Welcome, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Happy New Year, aggiungerei. Grazie e naturalmente rivolgiamo questo augurio anche a te a nostra volta. Allora, tu sulla base di questi dati l'America ha sorpreso il mondo, sono alcuni dei titoli così per riecheggiare il clima di quanto è stato detto in questi giorni. Sono stati definiti sorprendenti, molto incoraggianti, molto positivi. Qual è il tuo commento? Qual è la tua osservazione? Ma anzitutto positivo, e non potrebbe essere altrimenti, l'economia torna a correre, i lavori tornano a, si spera, abbondare e si spera anche che gli Stati Uniti funzioneranno un po' da motore, da traino per il mercato mondiale. Da americano navigato, nel senso che ho vissuto tanti anni anche all'estero, devo dire che c'è un aspetto in questo che mi preoccupa sempre, cioè vedo un incremento o una tendenza sempre più ad incrementare la disparità economica all'interno degli Stati Uniti, cioè chi ha ne ha di più, e questo lo trovo sempre preoccupante per il mio paese. Penso che non sia un fattore di calma. E sono stati messi in evidenza, infatti, negli ultimi mesi i dati relativi agli statunitensi che vivono sotto la soglia di povertà, e le percentuali indicano chiaramente un'impennata di coloro che si sono trovati sotto questa soglia, tra l'altro molto bassa, perché intorno ai $10,000 annui. Poi tutto questo è stato in qualche modo messo a tacere dall'emergere di un altro problema, cioè dei problemi razziali negli Stati Uniti. Infatti, e devo ammettere che non vedo le due cose completamente sconnesse, anzi, penso che l'uno sia collegato anche con l'altro, perché se andiamo a guardare chi sta sotto la soglia della povertà, sono quasi sempre poi i neri piuttosto che ispanici, piuttosto che altre minorità. E quindi abbiamo in questo senso un doppio problema da affrontare. Non siamo tradizionalmente un paese di super ricchi e gli eresti poveri. Tradizionalmente la nostra forza è stato proprio un enorme middle class, e questo va via via scremandosi, via via scomparendo, e questo lo trovo preoccupante. Io vedo anche sempre un altro aspetto, ed è questo: gli americani, a differenza degli europei, non sono voltati al risparmio, sono sempre voltati invece al comprare. Mi fa molto specie guardare, se penso alla mia carriera da scrittore, da traduttore, insomma, non è una carriera particolarmente ben pagato necessariamente, non è una carriera da ricco. Invece penso a un investment banker, per dire, qualcuno che lavora nella finanza. Da noi storicamente e anche ancora tutt'oggi prendono dei stipendi notevoli. Mio fratello minore, 10 anni meno di me, lavora in questo settore, ma allo stesso tempo ha meno soldi in banca che me, guadagna molto di più lui, non c'è dubbio, ma non pensa in questo senso, non immagina, non si dedica al futuro nel senso di fare un certo tipo di investimento. Per carità, mi sentisse mio fratello si arrabbierebbe, ma non intendo lui come tantissimi americani. È chiaro, a parte che gli manderemo l'intervista in file, e poi sì. Quindi poi ve la vedete voi, ma a parte questo, È impressionante anche, lo sanno ormai molti italiani che si trasferiscono oltreoceano, guardare semplicemente i carrelli della spesa, come vengono riempiti a Walmart da persone che poi vanno a pagare con l'equivalente dell'ultimo assegno di welfare, e come vengono riempiti, con quale accortezza, con quale attenzione, in un supermercato italiano. Cioè, la famiglia povera d'oltreoceano tenderà comunque ad accumulare, a comprare tante paia di pantaloni in vista dell'apertura della scuola, il famoso back to school, che coincide col picco delle vendite verso agosto negli Stati Uniti. La famiglia italiana ne comprerà uno, ma di una qualità diversa. È molto importante questo accenno. Assolutamente sì, anzi direi che anche seppur piccolo è un esempio lampante, perché c'è sempre questo sotto, questo senso che l'anno prossimo sarà meglio di quest'anno, guadagnerò di più, prenderò più soldi, cambierò lavoro, eccetera eccetera. Prendiamo in esame invece la popolarità del vostro presidente, ai minimi storici, nonostante alcuni risultati messi a segno ultimamente. Penso al 17 dicembre, all'annuncio del disgelo con Cuba, per citarne uno. Sulla politica estera però sembra che gli americani si aspettassero di più. Io sto parlando di coloro che l'hanno votato. Si attendevano un cambio. La Clinton, ricordiamo, aveva appoggiato l'intervento in Iraq e lui no. E ultimamente c'è stato il rapporto che ha svelato, diciamo, ha messo nero su bianco anni di torture a Guantanamo. Cosa lo ha danneggiato di più? Cosa c'è da aspettarsi da questa Casa Bianca per l'anno che si apre? Anzitutto non sono particolarmente d'accordo con i miei connazionali, penso che Obama tutto sommato abbia fatto un ottimo lavoro. Forse Obama paga in un certo senso, e non sono il primo a suggerirlo, è stato un po' accolto come non una messia, si può dire. Non, però è stato accolto un po' come un grande eroe, e tutti si aspettavano il mondo da lui, proprio perché era il primo afroamericano presidente, proprio perché era così bravo a parlare, così chiaramente intelligente. Un po' questo magari lo paga, ma io penso che la gente ha sempre la memoria corta e si dimenticano sempre la situazione che aveva ereditato dalla precedente gestione, dal precedente presidente. Cioè l'economia assolutamente a terra, le guerre, l'Afghanistan, le torture varie, la CIA, i problemi annessi al terrorismo. Io sono un fan di Obama, e per quanto riguarda questi suoi ultimi 2 anni, secondo me ho come la sensazione che vedremo sempre di più Obama libero, tra virgolette. Anzi, io sono sempre più convinto che guarderemo tra 10 anni a questi, o tra 10, tra 20, tra 30, a questi 8 anni di Obama, e lo guarderemo positivamente, come un presidente positivo che abbia fatto un ottimo lavoro dato la situazione che aveva ereditato. Grazie, buon anno naturalmente, Happy New Year. Prego, Happy New Year agli ascoltatori e a voi. Aaron Mains, ne avete ascoltato la voce, il corrispondente in Italia del Wall Street Journal. Ci spostiamo ora in Gran Bretagna, lasciamo le coste americane, ritorniamo in Europa per presentarvi però una persona, un progetto, un'organizzazione, un tema che si svilupperà nel 2015 e a cui è difficile in realtà dare una collocazione fisica. Per aiutarci sarà con noi Richard Donald Lewis, un linguista, un consulente in comunicazione cross-culturale, un autore inglese, se volete. Dove è stata la sua intuizione? Lui che inizialmente si era concentrato sulla diffusione dell'inglese, pensate che nel 1958 aveva aperto le Berlitz School in Finlandia e nell'anno successivo in Portogallo, ha capito che ormai nel mondo del 2000, nelle nuove mobilità, tradurre, conoscere la lingua dell'altro non basta più, bisogna sintonizzarsi su quelli che sono i parametri culturali delle le altre culture, su ciò che offende i cinesi prima di andare in Cina. È bene, prima di affrontare un colloquio di lavoro con un russo, con un tedesco, conoscere alcune delle usanze, quali sono le qualità più apprezzate, per esempio, dal mondo arabo. Molti italiani hanno lasciato l'Italia, cercano lavoro all'estero, altri hanno scelto di rimanere, di consolidare i propri rapporti commerciali o professionali con altri paesi, imprenditori da qua, ma in entrambe le situazioni è bene, se non l'hanno ancora fatto, che nel 2015 ripensino al proprio modo di rapportarsi con i nuovi collaboratori, con i colleghi, con coloro che incontreranno in Italia o all'estero, che appartengono a culture o a codici comportamentali totalmente differenti. Questo non solo per evitare gaffe naturalmente, ma per avere delle relazioni il più proficue possibile, e sul fronte economico e sul fronte personali. Il sito di questa fondazione, organizzazione, businessinsider.com. Ce l'hanno chiesto molti ascoltatori, perché abbiamo anticipato un estratto della nostra conversazione con lui in una puntata qualche giorno fa. Ora ve la proponiamo per intero. Siamo partiti da un articolo che aveva per oggetto il tempo, per l'esattezza, come le diverse culture percepiscono il tempo in modo differente, soprattutto dalle culture occidentali e orientali. Sentiamo cosa ci ha detto. Sì, e non solo da occidentali e orientali, ma vi sono differenze in come viene percepito il tempo anche all'interno di quelle culture. Per esempio, Italia e Svezia non sono certo paesi orientali, ma hanno un concetto di tempo molto diverso, o Italia e Germania, se preferite. Anche tra culture orientali ci sono differenze. Cinesi e giapponesi considerano il tempo in modo affatto simile. Parliamo ad esempio degli Stati Uniti. Per un americano il tempo è letteralmente denaro, lei ha scritto. Che cosa significa? Sì, per loro è così, è abbastanza vero. Gli americani pensano al tempo in termini di denaro. $10 all'ora, $20 all'ora e così via. Danno al tempo un valore in termini economici, è vero. Se ad esempio un americano vuole effettuare una vendita e passa un'ora al telefono senza però concludere l'affare, considera quest'ora nient'altro che tempo sprecato. Gli europei hanno invece una concezione completamente diversa. Se ad esempio un italiano dedica al tentativo di vendita lo stesso tempo, anche lui senza successo, non considera quel tempo come sprecato, ma come un investimento per affari futuri, perché lo ha impiegato per rafforzare il rapporto con il cliente, anche se non ha concluso la vendita. Per l'americano invece è solo tempo perso. Questo per quel che riguarda il tempo, ma abbiamo, parlando con il linguista Richard Donald Lewis, in questo caso grande pioniere di quelli che saranno gli studi sul cross culture, cioè sull'incontro tra culture diverse, gli abbiamo chiesto di prendere in considerazione non solo come viene percepito il tempo nelle diverse culture, ma anche altri aspetti. E ne è uscito un quadro sorprendente, nel senso che i paesi mediterranei sembra, e l'Italia non fa una bellissima figura in questo senso, sono un po' chiusi rispetto alle culture altrui. Lo testimonia il fatto che lui, tradotto in 15 lingue, chiamato in tutto il mondo a tenere conferenze e seminari, in realtà dall'Italia di chiamate ne riceva poche. Sentiamo. Alcune grandi aziende si adoperano per comprendere le diverse culture, ma altre no. Ad esempio Coca-Cola, Shell, hanno delle solide basi culturali e sono molto brave a vendere i loro prodotti in tutto il mondo perché conoscono le aspettative delle altre culture. Altre aziende, non avendo mai pensato a questi aspetti, sono andate incontro a dei fallimenti clamorosi, come nel caso della fusione Daimler-Chrysler, che è stata pessima perché le due culture non si sono integrate affatto. Gli americani non capivano i tedeschi e i tedeschi non capivano gli americani e hanno perso miliardi di dollari proprio a causa di questa mancata comprensione reciproca. don't study culture very much. Ci sono alcuni paesi che non studiano molto le altre culture e sorprendentemente sono la Francia, l'Italia e la Spagna. Non si interessano alle altre culture perché pensano di essere i detentori della cultura. Specialmente i francesi che si chiedono perché dovremmo studiare quando la cultura è qui, da noi, in Francia. Francesi, italiani e spagnoli fanno lo stesso errore. Invece paesi come l'Olanda, la Scandinavia, la Svizzera, la Germania tengono in considerazione questa materia e la conoscono molto meglio. They have seminars all the time on this subject. They understand the subject much better. I have given some in Italy, but not very many. Ho fatto anche qualche seminario in Italia, ma non molti. Lavoro naturalmente con la Fiat e l'Iveco, ma la maggior parte delle aziende italiane non è interessata a queste tematiche. Ad esempio, il mio libro When Cultures Collide è stato tradotto in 15 lingue, ma non in italiano, in francese o spagnolo. Questo è sintomatico, che sia stato tradotto in giapponese, russo, cinese, persino lituano, svedese, finlandese, ma non appunto in francese, spagnolo e italiano. Grazie mille a Richard Donald Lewis, linguista, consulente in comunicazione cross-culturale e autore della pubblicazione, anzi del libro mai tradotto in Italia, When Cultures Collide. Uno dei temi del 2015 sarà ancora una volta l'immigrazione, declinata come globalizzazione. Quanti sono nel mondo che hanno il privilegio, se così si può definire, comunque di nascere e morire nello stesso paese, cioè senza spostarsi? Perché questa domanda? Perché pensate, sono 300 milioni coloro che vivono all'esterno dei confini del paese, dove sono nati e di cui detengono la cittadinanza. È un problema non da poco quello della cittadinanza e che colpisce anche cittadini europei. Per parlarne con noi Charlotte Silverstein. Benvenuta, buongiorno e buon anno Charlotte. Grazie, buon anno anche a voi. Charlotte Silverstein è la corrispondente in Italia della radio danese, perché la Danimarca è stata in ordine di tempo l'ultimo dei paesi europei a rompere questo tabù che tanti effetti ha sulla vita quotidiana, cioè la Danimarca ha ammesso la doppia cittadinanza. Quando è successo e cosa comporta, Charlotte? È successo il 18 di dicembre, sono andata con altri danesi all'estero e stranieri in Danimarca al Parlamento ed è stata una giornata veramente bellissima, perché la Danimarca era uno dei pochi paesi nell'Unione Europea che ancora proibiva la doppia cittadinanza e comporta che gli stranieri in Danimarca e i danesi all'estero possono chiedere la cittadinanza dove vivono, diventare cittadini al 100% senza rinunciare alla cittadinanza di origine. Ciò, se io avessi chiesto prima la cittadinanza italiana, avrei dovuto rinunciare a quello danese. E la legge diventa attiva dal 1 di settembre 2015. E quindi in questo modo tu potrai chiedere anche la cittadinanza italiana, proprio perché la tua nazione d'origine ti permette di essere una cittadina riconosciuta anche se vivi fuori. Questo ha degli effetti sulla vita pratica quotidiana, Charlotte? Ma sono effetti enormi, perché noi siamo sempre stati detti che l'Europa, l'Unione Europea, possiamo girare come vogliamo, ma non c'è la libera circolazione. Anche io ho dovuto chiedere il permesso di soggiorno in Italia, come l'italiano in Danimarca deve chiedere anche il permesso di soggiorno. E i permessi di soggiorno, anche se lo chiamano un permesso di soggiorno permanente, non è mai permanente del governo attuale, perché le regole anche dentro l'Unione Europea per il soggiorno degli stranieri sono in continua evoluzione. Io infatti ho iniziato a interessarmi della problematica nel 2001, quando l'Italia ha avuto la legge Bossi-Fini, perché ha fatto delle restrizioni anche per i cittadini dell'Unione Europea. Allora l'unica cosa che ti dà il permesso, il diritto di vivere dove sei, e la cittadinanza. E io vorrei quello italiano, perché dopo 25 anni mi sento anche italiana, ma non potrei mai rinunciare di essere anche danese, e non vorrei mai, perché lo trovo assurdo, dover chiedere il permesso di andare a stare, eventualmente vivere, eccetera, nel paese dove sono nata. Questi sono i vantaggi. Poi ci sono una serie di cose pratiche in altri paesi, per chiedere i permessi di lavoro, per essere proprietari della propria casa, per avviare delle aziende, per far parte dei consigli, eccetera, eccetera. Per accedere, per esempio, all'insegnamento oppure a dei concorsi pubblici. La cittadinanza, dal punto di vista giuridico, è la condizione giuridica della persona che appartiene a uno Stato ed è titolare dei diritti civili e politici che si esercitano secondo l'ordinamento di quello Stato, dunque anche degli obblighi. Quindi, e non è solo uno status, diciamo così, su un passaporto, su un documento, è un rapporto giuridico che ha delle implicazioni molto delicate e spesso non si capisce quanto importanti siano, quanto profonde siano queste implicazioni. E quanti stati ancora in Europa non riconoscono la doppia cittadinanza? Allora, ora che la Danimarca l'ha permesso, rimane Olanda e Austria, che hanno delle restrizioni, e poi ci sono due dei paesi baltici, e poi c'è fuori dell'Unione Europea, c'è la Norvegia che proprio non ne vuole sapere. Quindi Olanda, Austria, Norvegia, Estonia e Lituania, se non sbaglio. Mi sembra di sì. È chiaro che la doppia cittadinanza concessa ora dalla Danimarca riguarderà molti danesi. Quanti sono più o meno i danesi all'estero? Ma noi non siamo mai stati contati, perché fino ad oggi siamo anche stati ritenuti un po' di traditori perché siamo andati a vivere all'estero, però la statistica danese ci fa sapere che siamo tra i 150 e i 250 mila, e con un paese di 6 milioni vuol dire che è un comune, possiamo dirlo, abbastanza grande. E sono moltissimi anche gli italiani che vivono all'estero. Questi sono gli effetti della globalizzazione, della nuova migrazione, della ricerca di opportunità di lavoro per professionisti. Si contava una volta un 60 milioni di italiani all'estero, partendo da coloro che detengono un cognome italiano, non un passaporto. Quelli iscritti all'AIRE infatti sono molto meno, quindi discendenti anche di quelle ondate migratorie dell'Ottocento, inizio Novecento. Chi emigra oggi è legato a doppio filo al proprio paese, e quando accede in una nazione dove è posto di fronte al dilemma se scegliere o meno la cittadinanza in quella nazione, oggi da italiano può contare su un fatto, cioè che può mantenere la doppia cittadinanza, anche se diventa danese, canadese, americano. L'italiano può mantenere la doppia cittadinanza, mentre altri stati, fino a poco tempo fa, come ci hai raccontato tu, Charlotte, non lo riconoscevano. Possiamo definirlo dunque un passo avanti? È un passo avanti, ma è anche, sono le leggi che proprio seguono la realtà, perché non saremmo certo di meno i migranti in tutto il mondo, perché è l'effetto della globalizzazione. E poi devo finire per dire, è bello sentirsi a casa in due paesi, in due culture. E allora io gli auguri per il 2015 te li porgo in italiano, tu falli a tutti gli ascoltatori in danese. God nytår til jer alle sammen. Grazie a Charlotte Silverstein, corrispondente in Italia per la Radio Nazionale Danese. Il 2015 sarà un anno intenso e torneremo tra pochissimo, dopo una breve pausa, per parlare di sbarchi inevitabili a causa delle guerre. Aumenteranno, cosa si profila? 24 mattino. Li abbiamo soprannominati sbarchi, semplicemente. Sappiamo degli immigrati soccorsi in Sicilia, sappiamo di tanti altri che invece hanno perso la vita nei nostri mari. E cosa aspettarsi per l'anno che si apre? Il direttore di Popoli e Missione, padre Giulio Albanese, oggi è con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E Popoli e Missione, una rivista missionaria della CEI che tante volte si è trovata a fotografare quella che è la situazione anche in casa di queste persone che si avventurano nel mare per la ricerca di una vita migliore, naturalmente, ma per incontrare tante volte anche un destino drammatico. Diciamo che ci troviamo di fronte a un fenomeno estremamente complesso e forse la responsabilità di chi fa informazione oggi, di chi fa il nostro mestiere, è proprio quello di non comprendere appieno che non è una situazione complicata, ma davvero complessa. Complectere, vale a dire, è una situazione in cui interagiscono diversi fattori. Se da una parte è logico essere preoccupati, ci mancherebbe, soprattutto se guardiamo a quella che è la situazione del bel paese, dell'Italia, dove purtroppo la crisi economica, la crisi del mercato del lavoro ha penalizzato gran parte della popolazione italiana, e quindi chiaramente i processi di integrazione non sono semplici, non sono, per così dire, indolore. Dall'altra sarebbe davvero peccaminoso misconoscere il dramma che in una maniera o nell'altra accomuna questa umanità dolente che sbarca sulle nostre coste, perché si tratta di gente che proviene da paesi dove spesso avvengono violazioni di diritti umani, dove si combattono le cosiddette guerre dimenticate, quelle che non fanno notizia. Penso alla crisi nella Repubblica Centrafricana, per non parlare della crisi somala che va avanti addirittura dal 1991, dalla caduta del regime di Siad Barre. E cosa dire di quello che succede nella Nigeria, soprattutto nel settore nord-orientale, dove i famigerati Boko Haram seminano morte e distruzione? Noi parliamo di un continente, l'Africa, da cui provengono molti dei migranti, che è davvero inferno e paradiso. Da una parte vi sono notevoli opportunità per quanto concerne soprattutto lo sfruttamento delle commodities, delle materie prime, non solo alimentari ma anche quelle le cosiddette fonti energetiche, minerali preziosi, penso al rutilio che viene utilizzato in parte per confezionare i nostri telefonini, la componentistica interna di tanti gadget che noi utilizziamo nella quotidianità. E paradossalmente tutta questa ricchezza diventa una maledizione, perché acuisce lo sfruttamento, come dire, la divaricazione tra ricchi e poveri, l'esclusione sociale. Cioè lei sta dicendo, padre Giulio, che spesso a guadagnare di questa ricchezza naturale del territorio sono le oligarchie locali e non la popolazione in genere. Guardi, ci sono dei paesi come la Nigeria in cui meno dell'1% della popolazione locale, vale a dire l'attuale classe dirigente, detiene praticamente oltre il 75% della ricchezza nazionale. Quindi è vero che per esempio nell'Africa subsahariana in questi ultimi anni è cresciuto il PIL, però è finito sempre nelle tasche dei soliti noti. E la questione sociale stenta a entrare nell'agenda dei governi. Eh sì, ma devo dire che ci sono anche grandi responsabilità da parte dei potentati stranieri, perché tutto sommato fa comodo avere dei presidenti padroni che guardano solo e unicamente al loro tornaconto, perché questi signori sono paladini di interessi stranieri. Anche se una crescita del PIL in alcuni paesi si è registrato, perché spesso abbiamo questa immagine dell'Africa così indifferenziata, soprattutto in Italia, e bisogna fare dei distinguo. Sì, certamente ci sono delle economie che vanno meglio delle altre. Paradossalmente la Nigeria, nonostante la maledizione del jihadismo, dei Boko Haram, quest'anno nel 2014, o meglio, ora siamo nel 2015, siamo nel primo gennaio, ma comunque lo scorso anno la Nigeria è quella che ha segnato la migliore performance per quanto concerne la crescita del PIL, questo soprattutto nel settore dell'oro nero, del petrolio, che potrebbe rappresentare per quel paese una benedizione. Il problema di fondo è che purtroppo lo sfruttamento è tale per cui questa ricchezza, i proventi dell'oro nero non vengono spalmati sulla popolazione locale. E dunque sostanzialmente i problemi della gente rimangono immutati, e questo è un dato davvero inquietante, perché se vogliamo affrontare la questione migratoria dobbiamo affrontarla in modo perspicace, affrontando per esempio la questione, la vexata e tormentata questione della democrazia, della partecipazione popolare. Tutte dimensioni valoriali che purtroppo vengono misconosciute. Ma lei vede dal suo osservatorio, padre Giulio, una sensibilità crescente da parte dell'Europa, degli italiani in particolare, o invece queste immagini anche di sbarchi, di soccorsi, non fanno che accrescere? A volte sembra proprio così. così, quasi l'intolleranza, l'insofferenza da parte anche di, chiaro, di forze politiche che alimentano questa sensazione. Guardi, sicuramente da parte dell'Unione Europea, come dire, non c'è grande sensibilità. A me pare che la questione migratoria non abbia fatto altro che rafforzare i nazionalismi, e ci si dimentica quello che scriveva il grande Leopold Sedar Senghor, il maestro del negritude, che abbiamo un destino comune, che dobbiamo incontrarci all'appuntamento del dare e del ricevere. E quindi a mio avviso è necessario che Bruxelles si assuma a questo riguardo le proprie responsabilità, però credo che gran parte della responsabilità ricada anche su chi fa informazione. E questo perché? Perché in effetti quando vi sono gli sbarchi sulle coste del bel paese, a meridione soprattutto, vi è una grande enfasi nel raccontare la cronaca degli sbarchi, però raramente nei nostri notiziari, nei nostri giornali radio, telegiornali e via discorrendo, spieghiamo alla gente, alla nostra gente, all'utenza in Italia, quello che succede in queste periferie del mondo, per utilizzare il linguaggio di Papa Francesco. Quando mai sui nostri telegiornali si parla della crisi somala o di quello che sta succedendo in Eritrea? E questo è un grave peccato di omissione, considerando peraltro i trascorsi coloniali, vale a dire il fatto che comunque l'Italia, storicamente parlando, è legata a queste nazioni. E lei vede per il 2015, visto che ci lasciamo alle spalle un 2014 che si è concluso proprio con grandi immagini di operazioni di soccorso anche nel mare Sicilia, vede per il 2015 qualche intervento di tipo culturale, di mentalità, che sarebbe opportuno fare o che verrà fatto? Vede una sensibilità da parte del nostro governo verso questo tipo di problematica? Guardi, è la sfida nelle relazioni nord-sud, in particolare Europa e Africa, prima ancora che essere una sfida economica, sociale, politica, è certamente una sfida culturale, e questo significa prendere coscienza del fatto che comunque in Italia oggi gli stranieri rappresentano l'8% della popolazione del bel paese, considerare quindi che sono circa 5 milioni gli stranieri residenti in Italia, si stima che siano 500.000 gli irregolari. Chiaramente è necessario in una maniera o nell'altra affermare, come dire, le istanze dello Stato di diritto, è importante nei limiti del possibile che il fenomeno migratorio venga governato, però andando al di là di facili populismi, di affermazioni che spesso, come dire, tendono a separare il bene dal male con il coltello, ci troviamo, lo ripeto con forza, di fronte a un fenomeno estremamente complesso, in cui è necessario da una parte una decisa assunzione di responsabilità da parte della nostra classe dirigente, ma anche da parte dell'Unione Europea, perché questo è un tema che in una maniera o nell'altra chiama tutti in causa. Parliamo di una questione legata ai visti. Queste persone che affrontano questo tipo di viaggi, sia dall'Eritrea, dalla Repubblica Somala o dalla Nigeria, si trovano spesso a pagare migliaia e migliaia di euro per quel tipo di trasporto. Quindi sono persone che evidentemente hanno trovato chiuso nella nazione da cui sono partiti la possibilità, quella diciamo ufficiale, legale, forse più semplice, di ottenere un visto per l'Italia. Su questo fronte si potrebbe fare di più? Si potrebbe fare di più, diciamo che anche in questo caso è difficile trovare delle soluzioni immediate, e le soluzioni dovrebbero essere condivise a livello di Unione Europea. Certamente, come dire, le regole che vengono poste dai governi attualmente per quanto riguarda la migrazione legale, tra virgolette, sono abbastanza rigide. Il problema di fondo è che i cosiddetti paesi di provenienza di questi migranti sono paesi in cui avvengono violazioni dei diritti umani, per cui non viene data spesso la possibilità a queste persone di lasciare regolarmente il loro paese, e dunque l'unica carta che hanno a disposizione è quella della fuga clandestina. Consideri che molti di questi vengono dalla sponda libica, e parliamo di un paese, la Libia, che è in una situazione davvero di caos a tutti gli effetti, e anche qui le responsabilità ricadono a mio avviso anche sui paesi occidentali, perché non dimentichiamo che se è vero che in Tunisia c'è stata la cosiddetta primavera araba, come per certi versi c'è stata anche in Egitto, in Libia le cose non stanno assolutamente così. C'è stato un intervento armato deciso da parte di alcuni paesi occidentali per rovesciare il regime di Gheddafi, che certamente non era uno stinco di santo, senza però tener conto di quelle che erano le controindicazioni. La verità è che noi su un piatto d'argento abbiamo dato la sponda libica su un piatto d'argento a formazioni anche alcune di matrice fortemente jihadista. E ci si trova alle prese a volte anche con migranti culturali, chiamiamoli così, nel senso i studenti o persone che si devono specializzare dopo la laurea, e che incontrano difficoltà enormi a regolarizzare il proprio visto anche per approdare alle vostre università pontificie. Sì, c'è un caso di un giovane il quale per esempio mi ha scritto chiedendo se era possibile, come dire, trovare qualcuno che in una maniera o nell'altra potesse dare delle garanzie. La legalità è sacrosanta, ma dall'altro bisognerebbe andare al di là di certa burocrazia che certamente non aiuta e paradossalmente acuisce a dismisura l'illegalità. Non la sento ottimista sulla possibilità che ci si avvii verso una soluzione, una gestione razionale del problema e che in qualche modo assicuri anche la salvaguardia di questi profughi che si danno al mare per cercare una vita migliore. Guardi, bisogna essere molto realisti, bisogna stare con i piedi per terra. Certamente il fenomeno migratorio non è un fenomeno che sta diminuendo, e questo nonostante la crisi. Quindi diciamo che il numero degli stranieri in Italia è destinato a crescere. Allora quello che è importante a mio avviso è governare il fenomeno, affermando lo Stato di diritto, la legalità, e dall'altra però capire che comunque in ogni caso questo è un problema che va condiviso anche con gli altri paesi membri dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che l'Italia è un paese in gran parte di transito, quindi molti dei migranti che sbarcano sulle coste del bel paese poi non vogliono rimanere in Italia, ma vogliono raggiungere altre nazioni più benestanti, dove vi sono maggiori possibilità di lavoro. Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Canada rimangono in vetta alle classifiche delle destinazioni, chiamiamole così, dei flussi migratori. Questo significa appunto che chi è nella stanza dei bottoni deve portare avanti delle politiche migratorie in sintonia, in accordo anche con altre nazioni, con altri paesi. Purtroppo devo dire che il problema di fondo è che questa affermazione dei nazionalismi in forma virulenta, soprattutto in Europa, in questo momento non sta assolutamente facilitando le cose. Ecco perché è importante parlare di questo tema e parlare proprio nella consapevolezza che comunque, non dimentichiamolo, gli stranieri per il nostro paese rappresentano anche una benedizione. Non dimentichiamo che parte del sistema pensionistico in Italia si tiene in piedi anche grazie ai migranti, i quali pagano i contributi, i quali in una maniera o nell'altra consentono anche ai nostri anziani di poter attingere mensilmente alla pensione. Fare riferimento quindi anche a questi aspetti è importante, anche perché l'Italia dal punto di vista demografico non sta crescendo, la popolazione degli anziani sta aumentando e quindi chiaramente il fenomeno migratorio da questo punto di vista rappresenta per il nostro paese anche una garanzia proprio per il sostentamento di questa previdenza. Grazie mille a padre Giulio Albanese, naturalmente l'augurio di un 2015 ricco di soddisfazioni e momenti importanti per la sua attività. Grazie. Grazie a voi. Padre Giulio Albanese è il direttore di Popoli e Missioni, la rivista missionaria della CEI. 24 mattino. E ancora una volta l'augurio di un buon anno, anzi di un anno eccellente da parte di René Zerbini. Ora ci spostiamo in Nord America un'altra volta, dove ci aspetta Antonio Nicaso. Antonio Nicaso, un giornalista, scrittore, un consulente italiano. Ora pensate che insegna storia delle organizzazioni criminali nelle università americane, cioè è considerato uno dei massimi esperti di 'ndrangheta a livello internazionale. E tra i suoi libri voglio citare Global Mafia, Acqua Santissima, che è l'ultimo uscito in Italia, Fratelli di Sangue, Bloodlines, e poi uno che uscirà in febbraio, Business or Blood, di cui faranno anche una serie televisiva. Buongiorno e grazie per il suo tempo, Antonio Nicaso. Buongiorno a lei. Nell'ultimo libro lei spiega che la strada della mafia si incrocia inevitabilmente con le strade della cocaina. Sì, esatto, la cocaina è oggi una grande fonte di reddito per le organizzazioni criminali e il denaro è funzionale al potere. Un tempo quando si pensava alle organizzazioni mafiose veniva subito in mente la violenza, le stragi, il sangue che scorreva a rivoli per le strade. Adesso si usano altre strategie che sono quelle legate al mondo della corruzione, tanto che spesso si sente dire che ci può essere corruzione senza mafia, ma non c'è mafia senza corruzione. Le mafie hanno bisogno di questa loro capacità relazionale, cioè la capacità di stringere rapporti con chi gestisce denaro e potere. Ma le mafie sono poliglotte, perché noi ci troviamo oggi all'inizio di questo 2015 a parlare con lei, purtroppo perché sarà uno dei temi, quello della mafia, che ancora una volta segnerà quest'anno, quello della criminalità organizzata, e attraversa i confini. Come si comunica, come si stringono quel tipo di alleanze, come si fanno quegli affari? Ma intanto bisogna dire che le mafie sono riuscite a globalizzarsi, l'azione di contrasto contro le mafie invece continua ad avere problemi con sistemi giudiziari diversi, con le frontiere, con le giurisdizioni, e quindi spesso le forze dell'ordine e la magistratura sono costrette ad inseguire i mafiosi che si spostano con grande facilità. Per quanto riguarda la comunicazione, è chiaro che sono stati fatti passi da gigante, dai pizzini o dalle farfalle, come venivano definiti i biglietti che volavano da una camerata all'altra delle carceri. Oggi spesso si utilizzano i social network, ma ancora sistemi più sofisticati. Recentemente a Roma è stato trovato un codice dell''ndrangheta che era scritto appunto in cifre, era una sorta di codice cifrato, ma addirittura io ho partecipato ad una riunione che si è tenuta a Londra in cui si parlava di cyber crime, in cui ho visto e ho potuto verificare, grazie alle informazioni che ho avuto a disposizione per un'analisi che ho dovuto fare, che addirittura cominciano ad utilizzare il cosiddetto undernet o darknet, che è un internet 450 volte più grande del www, senza un motore di ricerca e quindi senza la possibilità di indicizzare le parole. Però spesso abbiamo sentito parlare di conversazioni su Skype, su WhatsApp e su tanti altri sistemi. Per fortuna la polizia è riuscita anche a penetrare queste piattaforme e quindi ad intercettare comunicazioni importanti, però è sempre una lotta contro il tempo, con gente che ha la possibilità di assumere degli esperti del settore e quindi trovare sempre nuovi modi per comunicare e per sfuggire. La lingua sta diventando sempre l'inglese, che ormai è una sorta di esperanto delle organizzazioni criminali, che consente, soprattutto in paesi come quello dove vivo io, dove lavoro io, di comunicare anche quando si hanno estrazioni diverse culturali. Quindi se una volta le triadi si limitavano a taglieggiare i connazionali, o gli italiani si limitavano a taglieggiare i connazionali, adesso riescono ad entrare in contatto e a creare alleanze strategiche, perché è il business, è l'affare, è il profitto che li mette assieme e che annulla ogni differenza culturale e linguistica. Antonio Nicaso, lei vive in Canada, naturalmente scrive in inglese, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, però il fatto che lei sia italiano d'origine l'ha aiutata a capire molti codici, immagino. In che modo questo è stato uno strumento per lei? Ma indubbiamente, essendo io cresciuto in una zona della Calabria ad alta densità mafiosa, ho scoperto subito la pericolosità e la pervasività dell''ndrangheta, perché ricordo per esempio che il papà del mio compagno di banco è stato ammazzato. Io avevo soltanto 6 anni e mezzo e in quell'occasione io ho avuto la possibilità di notare il cambiamento di quel mio compagno di banco che era stato colpito da quella tragedia, che poi è diventata una sorta di tragedia collettiva, ed è da quel momento che forse ho cominciato a chiedermi da che parte stare, se stare dalla parte dell'indifferenza o dalla parte della consapevolezza, e forse qualcosa è scattato dentro di me che mi ha portato a voler capire e a studiare questi fenomeni. È chiaro che essendo italiano di origine, essendo cresciuto in una zona ad alta densità mafiosa, è stato molto più facile capire certi codici, certi linguaggi, certi comportamenti, però oggi diventa sempre più difficile identificare i mafiosi perché, come ormai sanno tutti, non vanno in giro con la coppola e la lupara, ma riescono a camuffarsi, riescono appunto ad entrare in ambienti importanti, anche perché i figli dei mafiosi spesso sono riusciti anche a laurearsi anche quando non hanno studiato, e quindi si sono laureati anche grazie a professori che si sono fatti corrompere, come hanno dimostrato tantissime indagini, ma però oggi sono gente che vestono come noi, si muovono come noi e frequentano gli stessi ambienti che frequentiamo noi, e allora si trovano molte porte aperte anche senza la violenza, senza esatto. bisogno di forzarle. Ora, prima di salutarci, Antonio Nicaso, una domanda sul riciclaggio, perché c'è tanta la sensazione così rispetto a ciò che lei diceva di questa mafia sempre più moderna e i localismi giuridici, i sistemi nazionali chiusi che stentano a tenere il passo, e che è qualcosa difficile da capire, è come avversare la mafia rendendo più difficile il riciclaggio. È un tema che si intreccia naturalmente a doppio filo con la storia d'Italia, anche le ultimissime vicende di cronaca che parlano inevitabilmente sempre di corruzione. Cosa si può fare? Io, assieme a Nicola Gratteri, per un libro che uscirà nel 2015 sui traffici di cocaina ma anche sul riciclaggio, ho viaggiato tantissimo, sono stato in 15 paesi del mondo praticamente dappertutto ho notato la grande difficoltà a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro, anche perché spesso si fa finta di non vedere, e non parliamo di posti esotici, ma parlerei per esempio della City di Londra, che è uno dei posti più importanti dove oggi si ricicla denaro, e molti sanno di queste dinamiche, però fanno finta di non vedere perché ancora si associa le mafie alla violenza, e quindi il denaro non puzza, il denaro entra nel circolo dell'economia legale con grande facilità. Ecco, spesso quello che notano gli investigatori e quello che mi raccontavano, ci raccontavano gli investigatori, era proprio questo, cioè la facilità con cui i criminali entravano nelle banche, nei centri di potere, cioè dove era possibile appunto riciclare denaro. E allora questo dimostra chiaramente la forza delle organizzazioni criminali, ecco perché se si limitano soltanto a commettere reati e ad usare la violenza restano ai margini. Nel momento in cui invece riescono ad investire i soldi della droga, riescono ad investire i soldi del malaffare, entrando in contatto con i centri di potere, ecco, riescono ad ottenere quella legittimazione e quel riconoscimento sociale di cui hanno bisogno per affermarsi. Ma perché, le chiedo questo, visto lo scenario che lei ha delineato, sembra quasi che la mafia eserciti ancora un fascino, nel senso, per esempio, gli sceneggiatori di Hollywood, ce l'ha appena detto lei stessa, la chiamano sempre, le chiedono di scrivere dei copioni per serie televisive, per film. Come mai c'è ancora questa sorta di attrazione verso questo mondo? Ma probabilmente perché soprattutto in Nord America non è stato mai possibile vivere le mafie con quel senso di repulsione che molti di noi hanno vissuto per esempio in Italia dopo le stragi di Palermo o ancora prima, per averli visti crescere o operare sul territorio con violenza, incutendo paura. Purtroppo nel mondo l'idea della mafia, l'immagine della mafia è stata filtrata da Hollywood e ha fatto dei mafiosi anche dei personaggi simpatici, di gente che dal nulla riusciva ad entrare nei centri di potere più importanti e quindi la capacità appunto di superare 2-3 generazioni senza dover provare lo sfruttamento di certi sistemi di lavoro e l'idea di poter appunto avere successo subito grazie appunto alla violenza, grazie appunto alla forza di corrompere chiunque rendeva e continua a rendere questi personaggi simpatici. Ecco, io direi che anche da questa parte dell'oceano bisognerebbe cominciare a decostruire il mito e cercare di far capire che i mafiosi non sono certo simpatici e anche quando generano ricchezza con le attività criminali è una ricchezza che inquina l'economia, che avvelena i sistemi, i circuiti legali e non certamente le persone che creano benessere e garantiscono occupazione. Grazie mille Antonio Nicaso per aver condiviso con noi questa sua analisi. Grazie a lei, buon anno. E abbiamo concluso economia, migrazione, cittadinanza, mafia. Queste sono state le tappe del nostro primo viaggio internazionale nel 2015. Ci ritroviamo domani alle 7.15 per 24 mattino. Da Irene Zerbini, da tutta la redazione di Radio 24, ancora una volta, auguri.